con Elena Guerrini, curatrice della 13ª edizione di Avveglia, Teatro del Baratto. Il tema di quest'anno è l'arte dell'incontro a Manciano, provincia di Grosseto, dal 13 al 15 settembre 2019. Elena, ben trovata. Ciao, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori dalla Maremma. Ricostruiamo brevemente lo spirito, spiega un po' cos'è questo Avveglia. Innanzitutto una buona notizia, è arrivata la 13ª, che non è la 13ª dello stipendio, perché noi artisti quella non ce l'abbiamo, ma non abbiamo anche le altre 12, ma è arrivata la 13ª edizione del Festival Avveglia Teatro del Baratto, perché da 13 anni a Manciano un paese si fa teatro, un teatro si fa paese. Tutto il paese diventa un palcoscenico, non con i palchi, ma con le piazzette del paese trasformate in palchi, con attori, narratori e musicisti che davanti alle porte delle case si esibiscono. Il pubblico esce di casa con in mano una sedia e nell'altra mano una bottiglia d'olio o di vino. Infatti si dice qui si bussa alla porta con la testa perché le mani sono piene di doni. C'è stata la conferenza stampa di presentazione, cosa prevede l'edizione di quest'anno? Sì, ieri c'è stata a Grosseto, alla presenza dell'assessore alla cultura, la presentazione del programma della 13ª edizione del Festival Avveglia Teatro del Baratto. Allora, il tema di quest'anno appunto è in Lakesh, incontrare e ascoltare, l'incontro e il dialogo. In un momento di social in cui siamo solo davanti al computer a scrivere, usciamo di casa e incontriamoci. L'arte dell'incontro definita in varie maniere, l'arte dell'incontro con l'altro, con altri popoli, e infatti apriamo con musica di Les Petits Griots, la formazione più piccola rispetto ai Super Griots, che è un gruppo di musicisti africani che vivono in Maremma, con una lettura mia e un incontro con loro per l'aperitivo all'Osteria dell'Orologio, un locale appena aperto nel centro storico di Manciano, che dovrà rivivere questi paesi con i centri storici bellissimi abbandonati. Ecco, noi lo facciamo rivivere. E subito dopo ci sarà Liuba Scudieri con Tre donne al mare, un'attrice antropologa, una narratrice che racconta delle storie d'amore e di migrazione. E per finire, sempre la stessa sera, un concerto live di Les Petits Griots sotto l'arco delle muretta, con musica dai sei lati del mondo. E quindi questa proprio è la parte, diciamo, dell'incontro con l'altro. Il paese di Manciano è un paese che dal punto di vista dell'accoglienza è importante, perché ci sono tantissime comunità di persone straniere, in particolar modo ci sono più di 600 persone della Romania, ci sono persone che comunque vengono accolte in questo paese. Il sabato ci sarà invece uno spettacolo per bambini alla biblioteca, Baratto di storie per grandi e piccoli, sempre con Liuba Scudieri, con i bambini che potranno intervenire nell'invenzione delle storie a Baratto. Il biglietto d'ingresso per i bambini non è vino e olio, ma un barattolo di marmellata o di miele, per abituare anche i più piccoli proprio all'idea del Baratto e del dono. La presentazione di un libro, sempre nella biblioteca, di Irene Blundo, Mare di Conchiglia, che invece sono degli incontri familiari, varie narrazioni legate a storie di famiglie, storie di luoghi e di incontri. È una giornalista che appunto ha pubblicato questo libro. La sera del sabato invece avremo Numere, costumatissima tombola napoletana, il grande Gino Curcione, che da 20 anni porta in giro per il mondo questa costumatissima tombola con i premi, e i premi saranno offerti dai negozianti del territorio. Quindi sappiamo già che la tombola è una cena meravigliosa per due in un ristorante molto romantico, la cinquina molto probabilmente un massaggio da una terapeuta massaggiatrice molto brava, e vari piccoli premi, ci sarà pure un taglio e messa in piega come premio, quindi premi offerti da tutti i ristoratori, perché questo che dico sempre, ristoratori, albergatori offrono camere e pasti agli artisti, per cui riusciamo a sostenere un festival con un minimo contributo dal comune, e tutto il resto appunto lo barattiamo, non si paga. per cui questa cosa è bella, questa ottica del dono. L'ultimo giorno, la domenica, ci sarà Isabella Donzelli, che è una consolor, e sarà proprio la conferenza sul tema del festival dal punto di vista psicologico, intitolata In La Cache, che vuol dire tu sei l'altro da me, l'arte dell'incontro e la matriosca. E la domenica sera una cena spettacolo con Mariella Fabris, con cibo angelico, un racconto con cena, gnocchi e vino, è una performance culinaria liberamente ispirata ai volatili del Beato Angelico, ma dopo la narrazione ci si siede a cena tutti quanti a mangiare gnocchi e vino, per cui sono molto felice di donarvi questo programma, spero che qualcuno anche da Roma prenda la macchina e venga a farsi un weekend in Maremma tra le colline e il mare. I riferimenti web per tutti i dettagli? Abbiamo sia la pagina Facebook Festival Aveglia, sia il mio sito elenaguerrini.it, sia Aveglia Teatro Barazzi blogspot.it, o il numero a cui chiedere tramite WhatsApp 339-8512-693. Quindi sia social sia proprio vocalmente, perché quando uno arriva chiede dov'è casa di, che su Google le case non ci sono. Credo che appunto il festival è arrivato alla 13ª edizione, è stata una crescita personale e comunitaria, proprio aperta al dialogo, perché si parla sempre molto di etica sociale, ma non sono le istituzioni o le cose esterne, il sociale viene da dentro di noi, e come diceva Bianciardi, la rivoluzione deve cominciare in interiore omine. 13ª edizione del Festival Aveglia, Teatro del Baratto, l'arte dell'incontro, questo è il titolo dell'edizione di quest'anno, a Manciano dal 13 al 15 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Elena Guerrini. Un abbraccio, un in bocca al lupo, ci si vede lì. E ci vediamo al Festival Aveglia, al Teatro col Baratto, mi raccomando la sedia. Ciao!